La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci amici, ben ritrovati al weekend al cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, La rosa purpurea, l'ora di cinema settimanale qui della nostra emittente. Una settimana con qualche grande attore che arriva sui grandi schermi d'Italia, a partire da Johnny Depp, che è sicuramente il dominatore, ma soprattutto è anche da quelli in maniera più collettiva che affollano The Avengers, il colossal Disney Marvel, con il meglio, la nazionale, il Dream Team dei supereroi, che sta per sbarcare, anzi è già sbarcato da qualche giorno, perché è uscito in occasione del 25 aprile con incassi già molto molto importanti dal primo giorno, e che ci fa pensare che alla fine della settimana saranno parecchi parecchi milioni di euro. Insomma, c'è parecchia materia di cui parlare in questa settimana al cinema. Allora noi condensiamo come sempre il meglio nei nostri titoli di testa. Puerto Rico, terra d'amore e di conquiste, almeno per Johnny Depp, giornalista etilico, protagonista di The Room Diary, tratto dal romanzo di Hunter Thompson, ma il film non convince. Thor, Hulk, La Vedova Nera, Capitan America, Iron Man, Occhio di Falco, Capitano Nick Fury, sono gli Avengers, il Dream Team dei supereroi Marvel, che arrivano tutti insieme nel colossal che ha già sbancato il botteghino. 3,5 milioni di incasso nei primi 2 giorni in Italia. Arriva nelle sale italiane Ho cercato il tuo nome, dramma sentimentale firmato da Scott Hicks su un reduce dell'Iraq alla ricerca della ragazza la cui foto gli ha salvato la vita. E tra melasse e tramonti spunta un attore vero, Zac Efron. Viaggio in Italia per il maestro del B-movie, il re del low budget, il regista e produttore che ha reinventato il cinema di genere, lanciando e consacrando decine di grandi attori e filmmaker. Alla Rosa Purpurea, intervista esclusiva con Roger Corman. Puerto Rico, sono venuto qui in cerca di una storia. Si chiama giornalismo. Questo curriculum è una montagna di puttanate. Ma ho trovato un paradiso sulla terra. È stata una notte impegnativa, vero Paul? Oh, e se non hai il rum a metterti nei guai? Lo fanno le donne. E se non è il rum a metterti nei guai, lo fanno le donne, dice il trailer di The Room Diary con Johnny Depp, il film con cui vogliamo cominciare la nostra rassegna delle nuove pellicole in sala. Johnny Depp, dicevo, il protagonista, insieme ad Amber Heard, ad Aaron Eckhart e ad altri grandi attori come Richard Jenkins, nei panni del direttore un po' fuori di testa di questo giornale di San Juan de Puerto Rico. L'avete sentito prima dire che quel curriculum era una montagna di stupidate, diciamo così, per usare un eufemismo. E allora, questo è l'arrivo a Puerto Rico di uno scrittore un po' fuori vena per quanto riguarda l'ispirazione, che arriva appunto a Puerto Rico per fare il giornalista, per scrivere in un giornale locale un po' scalcinato che si chiama The San Juan Star, giornale americano a Puerto Rico, un quotidiano peraltro sull'orlo del fallimento, anche se nessuno sembra volerlo ammettere, e diretto appunto da questo stanco e annoiato Mr. Lotterman, il personaggio di Richard Jenkins con tanto di parrucchino in testa. In questo giornale Camp viene incaricato di alcuni compiti sicuramente non primari, almeno all'inizio, però il direttore sembra capire che il ragazzo ha talento, un talento che va alla pari al tasso alcolico che rappresenta. Al giornale Camp incontra e fa amicizia subito con Sala, un fotografo di grande talento, anche lui più dedito alle sbronze che no, e insieme si mettono a lavorare a questo compito. Però una notte di stelle, mentre Paul Camp è in mezzo al mare con la sua barca, spunta una donna, e come l'ha detto nel trailer, se non è il rum a rovinarti, sono proprio le donne. Mi scusi, pensavo che la barca stesse solo galleggiando. Sta galleggiando. Lei fa quello che faccio io? No, non credo. Lei che fa? Fuggo da una festa orribile. Mi sono spogliata e via. Beh, molto coraggioso da parte sua. Pensavo che fosse una sirena. Dicono che tutta la zona ne sia infestata. Io sono del Connecticut. Il mio fidanzato tiene un discorso che dura 21 minuti esatti. Quindi sarebbe del tutto inutile invitarla per un drink. Che cos'ha? Beh, no, io intendevo al bar. Inutile. Meglio che vada prima che si chiedano che fine ho fatto. Un momento, come si chiama? Meglio mantenere il segreto. Non so qual è il segreto. Lo manterrà ancora meglio. E questo è l'incontro con Chenoa, interpretata da Amber Heard, la sensuale fidanzata di Sanderson, Mr. Sanderson, Aaron Eckhart, uomo d'affari corrotto che vive in questa situazione paradisiaca, una fantastica villa sul mare a Puerto Rico, una terra che vuole sfruttare in tutto e per tutto, soprattutto sotto il profilo immobiliare. C'è una isola appena fuori che sarebbe tutta da edificare, ci sono una montagna di milioni da fare. Sanderson ha bisogno dell'aiuto, del talento, del giornalista Paul Kemp, ha bisogno di articoli favorevoli sul San Juan Star per far sì che questo progetto edilizio possa andare in porto ed è disposto per questo anche a sacrificare, lo intuisce sin dall'inizio, una fantastica donna, la sua Chenoa, perché tutto sommato una montagna di milioni val bene un paio di corna in testa. È solo un fatto tecnico, Paul. Ti impegni a non parlare a nessuno del progetto. Questo posto è un mare di soldi, Paul. Soldi a palate. Tutte le grandi società nascondono i capitali offshore. No, grazie. E questa è una buona notizia, perché ci siamo noi offshore. Nessun dollaro che arriva a Puerto Rico paga un solo centesimo di tasse. Niente? Niente di niente. E questo vale per le società chimiche, petrolifere e minerarie. A 30 chilometri da qui c'è rame che vale 12 miliardi di dollari. 12 miliardi di dollari. E pensa, c'è gente come me che sa come estrarlo. Insomma, in poche parole non vi diciamo ovviamente come andranno avanti le cose, diciamo che il giornalista poco ispirato a un certo punto troverà l'ispirazione proprio quando si fa prima incastrare in questo progetto, poi capisce la portata devastante del progetto stesso e forse è il momento in cui finalmente ritrova se stesso e qualcosa da dire, qualcosa da scrivere. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, seconda parte della Rosa Purpura. Ci siamo lasciati con il racconto di The Room Diary con Johnny Depp. Un paio di notizie su questo film. Intanto è tratto dal romanzo omonimo e inedito e scovato proprio da Johnny Depp, dell'autore Hunter Thompson, che è stato un po' il creatore di quel stile giornalistico che è appunto il gonzo journalism, cioè un giornalismo etilico, possiamo dire, tanto per tradurlo, e si vede molto anche nel film. È un film, tra l'altro, tratto da un autore da cui era stato dato anche Paura e Delirio a Los Angeles, quindi una come dire, un marchio di garanzia per quanto riguarda lo stile. Johnny Depp, bello, tutto coi capelli corti nel film, tutto risistemato, anche se appunto ne combina di cotte e di crude anche lui. Un film girato in 16 mm, quindi con una fotografia un po' sgranata, molto anni 60-70, ed è un effetto voluto e anche abbastanza riuscito. Forse quello che manca a questo film davvero è un vero e proprio centro. Sì, ci sono le gesta di questo giornalista che prima arriva, si ubriaca, si innamora, si fa corrompere e poi cerca di riscattarsi cercando di evitare la chiusura del suo giornale, ma soprattutto scrivendo la verità su questo pastrocchio edilizio che si sta compiendo ai danni di una bellissima isola. Però mi sembra troppo poco, cioè la parabola non ha acuti e precipizi marcati per potersi poi davvero innamorare, davvero immedesimare dentro nel film e nei suoi personaggi. Chiedo invece cosa ne ha pensato, così, visto che ce l'abbiamo qui e lo utilizziamo fino in fondo, il nostro Boris Sollazzo di questo The Room Diary. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che devo pensare? Sembra un po' Mangia, non prega e ama Porto Rico di Johnny Depp, francamente. Io sono molto critico nel confronto di questo esperimento, forse perché sono innamorato di un altro film, come dire, etilico, in cui c'era Johnny Depp, che era quello di Terry Gilliam, sempre tratto da Hunter Thompson. Tra l'altro Bruce Robinson, io mi manca ancora molto da quando faceva Shakespeare a colazione. Qui mi sembra che se nel primo tempo vivacchia, riesce a tirar fuori la testa, anche a regalare qualche momento divertente, interessante, buono. Nel secondo tempo invece crolla miseramente, il film arriva veramente stancamente alla fine, quindi Purtroppo non ho un buon giudizio del film. E siamo in due allora, tra l'altro il Paura e Delirio erano a Las Vegas, non a Los Angeles, ho sbagliato città, ma insomma ci eravamo sicuramente capiti. Andiamo invece a parlare, Boris, di questo altro film. Qui diciamo potremmo fare una sorta di parabola inversa, cioè si parte, almeno dal mio punto di vista, non dico da una prevenzione, perché quando vado al cinema cerco di non essere mai prevenuto, infatti vado a vedere tutto e molto spesso becco delle schifezze non da ridere. Però certo non mi aspettavo moltissimo da un film diretto da Scott X, perché l'ultimo Scott X non è che ci avesse regalato dei momenti, diciamo così, memorabili, almeno appunto in tempi recenti. E poi quando vedi che il film si intitola Ho cercato il tuo nome, è una storia d'amore con Zac Efron protagonista, dici ma speriamo di cavarcela. E invece a mio modo di vedere, tutto sommato, non tanto per la regia, non tanto per lo stile di racconto pieno di patinature, di riflessi nell'acqua, di tramonti, di una melassa che devi andarti a fare la glicemia subito dopo l'uscita dalla sala perché non sai se te la caverai, c'è qualcosa a mio modo di vedere in questo film ed è soprattutto Zac Efron. Allora, prima di parlarne voglio farvi ascoltare questa clip. Era mattina, c'era stato un raid notturno, l'ho trovata lì, sembrava destinata a me. Mi sono ripromesso che se ce l'avessi fatta, avrei trovato quella ragazza e l'avrei ringraziata per avermi salvato la vita. Che cosa ti porta, Emden? È una lunga storia. C'è un uomo, è venuto per il lavoro e non riesco a mandarlo via. Come ti sei liberata di lui? Gli ho dato il lavoro. Dialogo madre-figlia, l'uomo è appunto Zac Efron, il suo personaggio Logan Thibault, tre missioni in Iraq, un rientro dopo un attentato al termine del quale ha trovato, anzi dal quale è stato in realtà salvato da una fotografia trovata per terra di una ragazza, aveva fatto due passi in avanti per raccoglierla e la bomba è scoppiata dove era prima, e quindi lui si è innamorato di questa foto, di questa ragazza, di quello che ha rappresentato per lui, e ha deciso, una volta tornato in America, di andarla a trovare in qualche modo, di capire chi fosse questa donna che senza saperlo inconsapevolmente gli aveva salvato la vita. La trova in una sorta di ricovero per cani, diciamo così, dove c'è anche addestramento eccetera eccetera. Lui se la cava abbastanza bene con i quattro zampe, viene assunto dalla madre di lei non voleva assolutamente, lei ha un figlio, è divorziata, è separata, ha un marito piuttosto violento, non particolarmente simpatico allo spettatore cinematografico. I due finiranno inevitabilmente per innamorarsi e da lì verranno fuori le classiche cose del melo classico americano, quello quasi anni 50-60. Come dicevo, gravato da una serie di diciamo così di sdolcinatezze che forse non erano neanche necessarie, a mio modo di vedere Boris invece impreziosito da un Zac Efron al quale riesce l'operazione che recentemente con Bellamy non è riuscita a un altro idolo delle teenager come Robert Pattinson. Cioè Pattinson non si è svampirizzato, rimane quello, forse anche meno talento, anzi secondo me sicuramente ha meno talento di Zac Efron. Zac Efron in questo suo primo vero ruolo drammatico adulto importante, secondo me regge bene la prova. Guarda, sono d'accordo con te, io non sono molto, come dire, molto positivo sul film, perché Scott X dopo Shine ha deciso veramente di ucciderci con il diabete cinematografico e anche qua ci riesce a mio parere benissimo. Però è vero questa cosa che dice di Zac Efron, quello che aveva un po' rovinato in Dear John Channing Tatum, cioè mettersi in un melodramma d'amore e che lo aveva appiattito su una recitazione molto negativa. Invece riesce al contrario a Zac Efron, che qui dimostra di non essere solo una bella faccia, anche aiutato, devo dire, da un ottimo, come dire, trucco e parrucco, che gli cambia un po' la faccia da quella da schiaffi che lo aveva fatto diventare l'idolo delle teenager. E lui direi che è una delle belle sorprese del film, anzi forse è l'unica bella sorpresa del film, perché poi ripeto, Stock X cerca veramente in ogni modo di rovinare sia lui che il racconto. Il racconto tra l'altro poi è una bomba vera, altro che quella che rischia di colpire il povero Efron, perché appunto c'è la guerra in Iraq, c'è una foto che porta fortuna, c'è proprio tutti gli stereotipi e anche qualcosa in più, insomma, veramente si esagera, a momenti sembra quasi una parodia. Però sono d'accordissimo con te che nonostante il film sia largamente insufficiente, Zac Efron dimostra di essere qualcosa in più di una bella faccia. A me ha ricordato molto i grandi miglioramenti che negli ultimi anni ha dato Raul Bova. Le loro facce sono troppo belle, tanto da essere penalizzanti, e per dimostrare di essere attori devono fare uno sforzo in più. Zack ha fatto il primo passo. Insomma, è un passo importante. Boris, rimani con noi perché fra poco dobbiamo cominciare a parlare di The Avengers, che è sicuramente il film più atteso della settimana, nonché quello di maggiore incasso quasi sicuro. Prima però cominciamo a giocare, cominciamo a farvi ascoltare la prima traccia misteriosa del DVD Game di oggi. Ricorda, professore, appena lei entrava in aula, dovevamo chiudere i finestroni. Lei non sopportava tutta quella luce, quel rumore. L'ho capito dopo perché faceva così. In tutti questi anni, vuol sapere la cosa che mi è rimasta più impressa nella memoria? La sua voce. Siamo nei pressi di un capolavoro italiano, e quindi comincio già ad aiutarvi sin da subito. La Rosa Purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta, il vostro indirizzo per provare a vincerlo, il più bravo e veloce del sabato e della domenica. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Sono nel bel mezzo di un interrogatorio, questi imbecilli mi stanno dicendo tutto. Io non sto dicendo tutto. Senti, non posso abbandonare proprio adesso. Natasha, Barton è stato compromesso. Resta un attimo in linea. Avete capito come va a finire? Semenano, insomma, proprio così. Avete sentito una clip di The Avengers, il film che arriva appunto nelle sale, è arrivato nelle sale il 25 aprile con la regia di Joss Whedon, con un cast che mette insieme niente po' di meno che tutte le star che hanno interpretato supereroi negli ultimi anni, per questa che è una sorta di dream team, di nazionale dei supereroi. Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark / Iron Man, Chris Evans, Capitan America, Mark Ruffalo, Hulk, Chris Hemsworth, Thor, Scarlett Johansson, che avete sentito prima cavarsela piuttosto bene con dei cattivoni russi, ed è la vedova nera, e poi Jeremy Renner, Occhio di Falco, e il cattivo di turno Tom Hiddleston, Loki, che arriva proprio da Thor, dalla vicenda di Thor, e il capitano di tutti, Samuel Jackson, Nick Fury. Era uno dei film veramente più attesi dell'anno, di Avengers, perché questa compagine di supereroi è stata anche protagonista di una serie di fumetti straordinari, e dopo che tutti hanno avuto il loro singolo successo cinematografico, tutti grossi successi cinematografici, vederli tutti insieme fa ovviamente una certa impressione. E allora il film ovviamente ha una trama sottile, abbastanza semplice. Il cattivo di turno appunto apre le cataratte stellari, fa scendere in terra chi alieno vuole invaderla e mangiarsela tutta, e gli umani non ce la fanno più, gli eserciti nulla possono, bisogna assolutamente mettere insieme qualcosa di ultraterreno. Allora andiamo a ripescarli, Capitan America che fa la box con il sacco, Hulk che si dedica ormai alla sua vita da scienziato cercando di non farlo arrabbiare troppo perché diventa verde, e poi ancora tutti gli altri, il Playboy, Stark, Iron Man, eccetera eccetera, mettiamoli tutti insieme e cerchiamo di venirne fuori anche stavolta nella nostra povera terra. Ascoltiamo ancora una clip del trailer, ne parliamo fra poco ancora qui alla Rosa Purpurea. La guerra è cominciata e le nostre forze militari sono insufficienti. Direttore Fury, ci siamo. Una missione, signore. Vuole reinserirmi nel mondo. Voglio salvarlo. Dottore, abbiamo bisogno di lei. E se io dicessi di no? La convincerò. Cosa mi sta chiedendo di fare? Era conosciuto come il progetto Vendicatori. Pensavo di non essere idoneo. A quanto pare sono, come diceva, instabile, egoista e non ho un buon rapporto con gli altri. La Rosa Purpurea. Devi essere molto disperato per rivolgerti a delle creature smarrite per difenderti. Grazie a te se sono molto disperato. Non siamo una squadra, ma una bomba pronta ad esplodere. E la bomba esplode, e come, si chiamano The Avengers, i Vendicatori, sono nelle sale cinematografiche d'Italia da qualche giorno e il primo giorno hanno superato i 2 milioni di incasso in un giorno, 2 milioni 265 mila euro di incasso. Sono proprio molto molto curioso di vedere cosa avranno combinato alla fine della settimana, perché qui siamo in area di record stagionale, o insomma comunque qualcosa che è partito veramente molto molto forte. Vi abbiamo detto precedentemente un po' della trama di questo film, adesso ne parliamo un po' con Boris Sollazzo. Boris, io mi sono divertito veramente tanto. Dal dirlo a me, io ho avuto la fortuna di essere, come dire, estromesso da una comunicazione delirante che poi a Roma ha portato anche alla protesta dei fotografi, all'arrivo dei vari supereroi, da Scarlett Johansson a Hemsworth. E me lo sono potuto vedere al cinema e devo dire, ringrazio di essere uscito fuori dal clima guattato delle proiezioni stampa per potermelo vedere al cinema, perché ho visto l'entusiasmo di moltissimi degli spettatori che appunto hanno fatto questo, che non so se è un record, ma di sicuro è un dato impressionante per un mercoledì, sia pur festivo. E devo dire, vedevo un grandissimo entusiasmo, anche se questo è un film che entusiasma molto chi conosce anche magari superficialmente i personaggi nei fumetti, perché filologicamente si prende delle libertà ma anche un certo rigore, e che invece distanzia un po', diciamo, il pubblico chiaramente un po' più intellettuale o che non l'ha neanche mai sfiorati. Diciamo che non c'è l'effetto Iron Man che avvicinò invece anche molti che fumettisti, fumettari, fumettologi non erano. E detto questo, il film è divertentissimo, secondo me usa benissimo, perché Josh Whedon poi è uno che sa il fatto suo, il clima da reunion. Io adoro i film che iniziano con una chiamata alle armi, no? Che siano i Muppet o che siano gli Avengers, francamente quei 10, 15, 20 minuti in cui vai a scoprire che cosa, che fine ha fatto l'eroe e come rientra nella squadra, già fa a mio parere metà del film. Gli attori sono praticamente tutti azzeccatissimi. Scarlett Johansson, nonostante sia una delle attrici più antipatiche della storia, qui devo dire che è di una bellezza che già di per sé è un superpotere. E c'è una scrittura che ci riempie di aforismi eccessivi, folli e molto divertenti, insieme a un'azione che non molla mai la presa. E alla fine, francamente, sì, è cinema da popcorn, ma a mio parere poi te ne prendi tre di buste di popcorn, tanto è la tensione, l'adrenalina e il divertimento che ti provoca. Non sarà un capolavoro, non entrerà tra i primi 100 film, non verrà forse mai proiettato a Cannes, ma è uno di quei film che ti fa uscire stracontento fuori da una sala cinematografica. E tra l'altro è molto interessante come vengono usati i personaggi. Sono d'accordo con te, anch'io sono un grande appassionato proprio di questi film che vanno a scovare i loro personaggi che noi conosciamo già, ma li vanno a trovare quando erano giovani. Ricordo per esempio il prequel di Star Trek, io l'ho amato alla follia, perché rivedere quei personaggi nella loro gioventù, quando ancora erano in formazione ma tu sai già chi sono diventati, era una cosa straordinaria. Hai parlato dei Muppet, mi viene in mente il prequel degli X-Men per esempio, e qui siamo ancora da quelle parti. Allora c'è questa sorta di chiamata alle armi, è molto molto bello come legano i personaggi, come legano i caratteri, le nuove gerarchie che si vengono a trovare, che sono tutt'altro che scontate, perché per esempio uno come Iron Man, che sembrerebbe dover fare il capo tutta la vita perché è uno smart, brillante, ironico, playboy, molto molto intelligente, invece non diventa il capo della banda assolutamente, così come il bamboccione Thor o Capitan America sono quelle che alla fine vengono davvero chiamati alla leadership delle operazioni militari, sono quasi loro che dettano i ritmi. Per esempio Hulk con questo suo voler essere dottorino fino in fondo, perché altrimenti se mi fanno arrabbiare insomma non so più contenermi, e ci mette molto per esempio a esplodere, a diventare verde. Ecco, tutti questi dettagli legati da un'ironia straordinaria nei dialoghi penso siano una delle cose che fa stare il film per così tanto tempo in piedi. Sì, assolutamente, sono d'accordissimo con te, in quello c'è anche la filologia rispetto al fumetto, cioè effettivamente quando si formano i Vendicatori Hulk è tra virgolette comunque l'emarginato, perché è quello più difficilmente gestibile, è la bomba inesplosa che tutti hanno paura di maneggiare, lui stesso compreso, Sempre nel fumetto sono Capitan America e Thor i leader anche carismatici, mentre Tony Stark in qualche modo soffre il fatto di essere il maggiore finanziatore ma non il leader, nonostante lui si autodefinisca genio, miliardario e playboy. E poi c'è anche un lavoro, come dicevi tu, sull'ironia, ma anche un po' sulla psicologia di questi personaggi, che sono tutti chiaramente matti. Io mi sono riconosciuto in tutte le loro caratteristiche, tranne in quelle di Stark, non essendo né genio, né miliardario, né playboy. Però voglio dire, in qualche modo c'è anche quel tipo di empatia che si crea con lo spettatore, perché questo poi alla fine è un gruppo di uomini molto particolare che si ritrova perché ha delle caratteristiche sì speciali ma anche molto difficili da gestire, e l'ironia che in alcuni momenti addirittura arriva ai confini della parodia, però in maniera divertente, in maniera consapevole, dà quel condimento in più che per me rende questo un film che consiglio per divertirsi, insomma. Se qualche settimana fa consigliavo Diaz come film fondamentale e da vedere assolutamente, dopo che vi siete visti Diaz, anche forse per liberarvi, direi che The Avengers in maniera catartica può essere un'ottima scelta. E allora, buon divertimento con The Avengers al cinema. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Franco, alla prossima settimana. Allora, noi adesso siamo giunti alla seconda traccia del film misterioso di oggi, prima di parlare fra poco e sentire fra poco uno straordinario personaggio da storia del cinema con la S maiuscola. Sentiamo la clip. Vi siete mai domandato, clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno. Per soldi, quasi tutto. Per fede fascista pochissimo. Voi no. Voi non siete spinto da nessuno di questi motivi. E qui è entrata un'altra situazione epocale, diciamo così, che dovrebbe aiutarvi a capire quale grande capolavoro italiano sia questo film. La Rosa Purpura a @radio24.it, diteci di che film si tratta con il vostro indirizzo. Più tardi ci sarà l'ultima traccia misteriosa. Oh, bene, dicevamo, allora sta per arrivare qui la Rosa Purpura, un personaggio penso fra i più altisonanti per la storia del cinema, di quelli che ho avuto il bene di ospitare qui in questa trasmissione da ormai 13 anni a questa parte. Stiamo parlando del re del B-movie, dell'inventore di un modo di fare film, cinema molto divertente, cinema di genere con pochissimi soldi, con pochissimo tempo a disposizione, ma lanciando una caterva di personaggi diventati epocali nella storia del cinema. Stiamo parlando di un regista e produttore fra i più prolifici della storia del cinema e anche di un inventore di una factory che è diventata un marchio di fabbrica vero e proprio. Stiamo parlando insomma di Roger Corman, che è passato in Italia e la nostra Chiara Pizzimenti per la Rosa Purpuria se l'è subito accaparrato, ci ha parlato un po' insieme. Sentite il ritratto che è venuto fuori. È questo lo studio del dottor Farb? Un momento! Vede? Molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce? Sì. Narra la leggenda che il film, di cui avete appena sentito una scena, La piccola bottega degli orrori, con un giovanissimo Jack Nicholson, sia stato girato nel 1960, per scommessa, in due giorni, con $35,000. Conferma i tempi, aggiungendo che c'erano anche le notti, il regista di quel film, Roger Corman, classe 1926, laurea in ingegneria, fattorino a Hollywood prima di diventare il re dei film di serie B. Con orgoglio racconta di aver fatto un vessillo del basso costo, 50 film da regista, altri 250 da produttore o distributore, senza aver mai perso un dollaro, come recita il titolo della sua autobiografia. Signor Winthrop, la prego! Signor Winthrop, vada via! Dove il burro eterno ha cominciato ad aprirsi, vada via! Dove è andato? Non lo so, signor! La prego, la prego! Tutta la casa potrebbe crollare da un momento all'altro! I vivi e i morti, da Edgar Allan Poe. La prima passione è letteraria, messa in scena, con Vincent Price come protagonista, senza sforare tempi e budget, e pensando anche di utilizzare, 10 anni fa, la medievale Bologna, dove noi lo abbiamo incontrato. Era una mia passione personale. Ho letto i suoi lavori quando ero a scuola e ho sempre voluto portarli al cinema. In particolare mi piaceva I vivi e i morti, e quando questo film ha avuto successo ho fatto tutti gli altri. Ho pensato di fare anche qui un film come quelli tratti da Edgar Allan Poe. Invece di costruire i set, avrei utilizzato i veri palazzi di Medioevo e Rinascimento. Ci sono così tanti posti da fotografare. Ci ho pensato davvero. Mi sono interessato anche a una possibile coproduzione italiana. ma alla fine non se n'è fatto nulla. Per più di una generazione di giovani registi è stato un maestro. Nella sua Factory sono passati Coppola e Bogdanovich, Scorsese e Jonathan Demme, che gli ha consegnato 2 anni fa l'Oscar alla carriera. Un maestro nel senso artistico, ma anche scolastico del termine, perché come ha detto Martin Scorsese, era come un professore, molto severo, ma anche con un lato gentile. È successo anche ad altri, compresi i preferiti da Corman ancora oggi. Mi piace una persona che ha cominciato con me facendo film di fantascienza a basso costo. È James Cameron, che adesso fa i film di fantascienza più costosi di sempre. Christopher Nolan è un altro giovane regista che mi piace molto. Paul Thomas Anderson fa ottimi lavori. Ho visto per la prima volta i suoi film quando ero in giuria al Festival di Tokyo. Ho comprato il suo film e l'ho distribuito negli Stati Uniti. È stato così che l'ho conosciuto. Da distributore ha portato negli Stati Uniti Federico Fellini, oltre a Truffaut e Kurosawa. Gli abbiamo chiesto cosa apprezza del cinema italiano degli ultimi anni. Non conosco molti registi italiani di oggi, ma ho molto apprezzato un paio d'anni fa il film Gomorra. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro, che sia un buon regista. E ancora il film che parla di un ex primo ministro italiano. L'ho apprezzato. Questi sono i due che ricordo. Non solo registi, ma anche attori hanno mosso i primi passi alla sua corte, dal già citato Jack Nicholson a Peter Fonda nella parte di un motociclista nei Selvaggi, ben prima di Easy Rider. Yeah, we don't want nobody telling us what to do. We don't want nobody pushing us around. Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. We want to be free to ride. Scopritore di talenti e valorizzatore di generi, dal western alla fantascienza, dalla commedia nera all'horror, compresa la sperimentazione del serpente di fuoco. Appena comincio, mi prende l'effetto. Mi trovo come legato a un albero e mi viene una specie di ronzio da impazzire. Allora mi sono detto, coraggio ragazzo mio, già che sei in ballo, buttati dentro. Non è un viaggio da consigliare, è una droga che ti appesta. Artista impresario, la definizione è sua, Corman sa fare i conti, comprende i ribelli della controcultura, li riprende e li produce, facendo fra gli anni 60 e 70 anche 2-3 film per ogni stagione. Solo ricavando qualcosa al botteghino, lui lo sa, si continua a fare i produttori, ancora oggi, e investendo sul cinema e nelle sale cinematografiche. Io stesso sono comproprietario di 2 sale cinematografiche. Sono piccole e chiuderanno perché non possiamo permetterci il costoso passaggio al digitale. La cosa che io spero è che con la conversione di un maggior numero di cinema, i costi diminuiranno, come abbiamo visto accadere per ogni tipo di nuova tecnologia. Forse chi non lo può fare adesso potrà permetterselo in un anno o due. Ma ci sarà posto allora solo per le grandi produzioni? Certamente accadrà questo in un primo momento, finché non saranno ridotti i costi della digitalizzazione. Dopo ci saranno invece più possibilità per i film a basso costo. Stampare la pellicola è un processo che costa migliaia di dollari. Il digitale non costa quasi nulla. Se la conversione in digitale dei cinema diventerà meno cara, ci sarà più spazio per le pellicole low budget. Ma per ora i tempi non sono buoni. Lei che ha tanto sperimentato, crede nella rete come strada per il cinema? Credo fortemente in Internet. Si sta vedendo già ora con i video on demand. Ho preannunciato questa cosa già da anni, che in breve, un anno o due, saremo andati con i film su Internet. Lo sostengo ancora. Accadrà in un paio d'anni. Ancora non è successo, ma credo davvero che stia cominciando ad accadere. Era il grande Roger Corman alla Rosa Purpura, in esclusiva l'intervista di Chiara Pizzimenti con il maestro del B-movie di tutti i tempi. La Rosa Purpurea. Pensavo a un piccolo crossover prima, chissà, un film come The Avengers piacerà sicuramente molto a Roger Corman, così mettevo insieme i vari ingredienti della settimana qui alla Rosa Purpurea. Parliamo adesso di cinema da vedere in casa, in televisione, in un video, film da vedere, rivedere, recuperare, registrare per completare o farsi una cultura cinematografica, e noi andiamo subito nella redazione di Film TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Franco e bentornati con le nostre segnalazioni. Allora Giulio, parliamo subito delle scelte dai palinsesti televisivi di questa settimana. palinsesti in chiaro del digitale terrestre prevalentemente, perché c'è un autore che mi sta particolarmente a cuore come Krzysztof Kieślowski, a cui domenica 29 aprile nel pieno della notte Rai 3 fuori orario dedica un paio di film. Esattamente, a partire dal 1.55 di domenica su Rai 3 all'interno di Fuori Orario, Il cinematore senza fine di Kieślowski, due dei suoi film meno celebrati. Partiamo dal cinematore, una riflessione amara, acuta e satirica sul rapporto tra le immagini, la realtà e il potere, dove la passione per la ripresa di un economo in una fabbrica polacca va di pari passo con la crisi del suo lavoro e della sua famiglia, con un grandissimo Jerzy Sur, anche coautore della sceneggiatura. Di sei anni successivo invece è Senza fine, del 1985, storia di un avvocato testimone di quel che accade anche dopo la propria morte, sia sul campo del lavoro e su quello sentimentale. All'interno di questo film ci sono già tutti i temi di Kieślowski tra spirito e impegno civile, un film che fu osteggiato tantissimo sia dalla Chiesa che dal partito. E questo per quanto riguarda la prima proposta, anzi le prime due proposte, la notte dedicata a Kieślowski domenica 29 aprile su Rai 3 dall'1.55. C'è poi invece spazio, se uno volesse completare la notte e vedere quasi l'alba, lunedì 30 aprile Rai Movie 6.30 del mattino, Il bidone di Federico Fellini, uno dei film più strani e anche più meticci in termini di generi che si vanno ad accavallare del maestro riminese. Sì, lunedì mattina su Rai Movie alle 6.30 al bidone, tre piccoli criminali trovano nella campagna romana territorio fertile per le loro truffe, e quando Augusto, il più anziano e consapevole dei tre, tenta di bidonare i compagni, viene punito. Un anno dopo l'Oscar alla strada, Fellini realizza un film aspro e crudo che dalla commedia picaresca termina decisamente in maniera molto amara, un film laicamente religioso che fu incompreso all'epoca ma rappresenta uno dei momenti fondamentali nello sviluppo della sua poetica. E allora Il bidone di Federico Fellini è lunedì 30 aprile su Rai Movie alle 6.30 del mattino. Grazie alla redazione di Film TV e a Giulio San Giorgio. Grazie a te Franco e la prossima settimana con le nostre segnalazioni. E adesso, prima di passare invece a parlare di un video, noi andiamo a giocare nuovamente insieme con la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Ha assassinato un uomo, un esiliato politico, il 15 ottobre 1938, il professor Quadri, Luca Quadri, e sua moglie, Anna Quadri. Molto più di un suggerimento ormai per questo capolavoro, La Rosa Purpurea, @radio24.it. Di che film si tratta? Ditecelo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Come sempre, una copia per il più bravo e veloce del sabato e della domenica. Andiamo a sette giorni fa, andiamo a sentire una delle tracce che avevamo seminato. La leggenda dice che soltanto una doc può svelare il segreto dell'unicorno, ma c'è voluto un Rackham per completare il lavoro. Quindi hai perso di nuovo, Haddock. Proprio così, perché non ti fai un goccetto? È l'ultimo sforzo arrivato in sala in Italia, firmato Steven Spielberg. Parliamo di Ten Ten, anche qui il fumetto, quello d'autore europeo diventato cinema grazie a un grande del cinema americano. Ten Ten in Blu-ray, l'hanno indovinato, l'hanno vinto per primi sabato e domenica scorsa Lorenza Cangini di Genova e Davide Rossi di Cuneo. Riceveranno questa edizione in Blu-ray di Ten Ten, della quale parliamo col nostro Claudio Poffi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questo film di Spielberg e Peter Jackson, sono state pubblicate numerose edizioni e un video, in particolare una versione numerata Digibook con incluso un libretto con immagini esclusive in alta definizione, disponibile sia il Blu-ray bidimensionale che quello 3D, sono entrambi di eccezionale resa, non solo video ma anche audio, c'è una traccia DTS ad alta risoluzione in italiano che addirittura in inglese arriva a 8 canali. Notevole volume di extra, sono tutti in alta definizione, sono vari focus sulla produzione, un approfondimento sull'amore di Spielberg per le strisce di Ten Ten, l'immenso lavoro di creazione digitale di personaggi e scenografie, e non mancano nemmeno le immagini dei festeggiamenti di inizio e fine riprese. E questo allora per quanto riguarda Ten Ten, il game della scorsa settimana. Un altro paio di recensioni invece in videoteca in questi giorni, cominciamo con Giochi di potere. Sean Miller è scappato. Ma che cosa significa? Niente, volevano dirmelo. Credevano mi interessasse, invece no. All'Ira non sono stupidi. Non si sognerebbero mai di seguirmi fin qua. Anche la CIA la pensa così. Se ne sono andati, chiuso. E non ti hanno chiesto di lavorare con loro? Ho detto di no. Stai dicendo la verità. Jack Ryan, ex analista lobbista della CIA in Inghilterra per una conferenza, assieme a moglie e figlioletta, sventa l'attentato ai danni di un membro della famiglia reale, colpendo mortalmente uno dei terroristi e facendo arrestare il fratello Sean Miller. Quest'ultimo, appartenente a una falange estremista dell'IRA, riuscirà a liberarsi durante il trasporto in carcere, mettendosi sulle tracce di Ryan e dei suoi cari per consumare una spietata vendetta. Era 1994 quando Harrison Ford interpretava per la prima volta il personaggio nato dalla pena del romanziere Tom Clancy in un thriller manierista diretto da Philip Noyce. Il film è finalmente disponibile in Blu-ray grazie a Universal, di eccellente qualità video. C'è una traccia in italiano Dolby Digital identica al DVD e almeno in inglese ad alta risoluzione. È presente un interessante extra di approfondimento sulla lavorazione. E per gli amanti invece della fantasy, della fantascienza classica, 20.000 leghe sotto i mari. Ci pensi. Alla superficie vi è fame e paura. Gli uomini, secondo me, sono regolati da leggi ingiuste. Combattono, si uccidono, si fanno a pezzi. A soli pochi piedi sotto le onde il loro regno cessa, la loro malvagità affoga miseramente. Qui, nel fondo dell'oceano, è la sola indipendenza. Qui sono libero. Per cacciare una mostruosa creatura marina che distrugge le navi militari che solcano l'Oceano Pacifico, vengono reclutati un cacciatore di balene e un eminente biologo marino. Una volta affondata la fregata americana su cui si trovano e che ha disperatamente tentato di abbattere l'essere, gli uomini realizzeranno che lo sterminatore non è altro che un sottomarino corazzato, il Nautilus, su cui vengono fatti prigionieri, dove incontrano Nemo, il comandante con un'originale filosofia di vita che ha deciso di combattere a modo suo la prolifica industria bellica mondiale. Cult movie fantascientifico prodotto nel 1954 dalla Disney, ampiamente ispirato all'omonimo romanzo di Jules Verne, è ora disponibile per la prima volta su DVD di ottima qualità video, accettabili le tracce audio Dolby Digital multicanale in italiano e inglese. Tra gli extra, uno speciale interessantissimo televisivo di 7 minuti andato in onda all'epoca per promuovere il film, ma c'è anche un tour del sommergibile Nautilus. E allora questi suggerimenti qui della Rosa su Purpura in un video questa settimana, grazie Claudio, appuntamento fra 7 giorni. Un saluto, a presto. E siamo arrivati alla fine, e come sempre la nostra corsa si chiude con le segnalazioni in video. Grazie a Giorgio De Luca in redazione e a Paolo Corleoni in regia. Noi ci risentiamo la settimana prossima qui alla Rosa Purpurea, alle 18 del sabato, alle 15 della domenica per chi ci ascolta in replica. Un saluto da Franco D'Assisi.